siete incredibilmente all'ascolto di Radio Onda Rossa 87900 in modulazione di frequenza, 40 anni di radio libera e indipendente. Volevo salutare tutti i compagni che ci hanno ascoltato e salutare questo posto che mi è così caro comunque e che mi ha così segnato la vita, insomma, che è importante ricordarlo tutti insieme in occasione di un festeggiamento del tutto legittimo, che 40 anni una realtà come questa, nonostante i cavi, i fusci. Grazie alla Radio Onda Rossa, auguri per i 40 anni. Grazie. Onoratissimo di poter contribuire. Che poi il trenino è una storia di derivazione giamaicana completamente, perché diciamo è la telefonata alla radio proprio per il Wheel Up and Come Again, cioè rimetti il pezzo. E questa è una cosa che abbiamo solo noi. Onda Rossa, che è una realtà fondamentale che vive grazie alla partecipazione di tutte e tutti, quindi sosteniamola. E allora è arrivato il trillino, la rimettiamo. 06 49 17 50 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Grazie a Radio Onda Rossa, auguri per i 40 anni. Grazie. Onoratissimo di poter contribuire. Onda Rossa, che è una realtà fondamentale che vive grazie alla partecipazione di tutte e tutti, quindi sosteniamola. Per me è un grande onore essere qui, Radio Onda Rossa, anche perché fa parte di un quartiere dove ho passato tanti anni della mia vita, sono maturato molto. Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa 93300, 93450 in FM. E allora iniziamo così, quando nacque la radio era il 1977. Ma io sto in diretta! Sì. Mannaggia a voi, mannaggia! Su Radio Onda Rossa. Di un mondo senza frontiere, di un mondo senza visti, senza dogane, senza polizia, un solo sangue, un solo popolo. Quindi che sia l'antifascismo, antifascisti, antisessisti, antirazzisti, un'antiomofobia anche, insomma. Wake up, wake up. Solo un piccolo villaggio della Gallia, dove ci vivono i più pazzi di tutti, e dice no, noi rimaniamo qui e voi dovrete mandare via il Vaticano. Grazie mille davvero. Il nostro cuore nordico si sta sciogliendo. Tantissimi auguri alla Radio Onda Rossa. Io vi conosco da 82, quindi da 35. I primi 5 anni in c'ero, però comunque auguri. Così antico e così tanto tempo che non viene la radio, io pensavo che funzionassero i piatti. Penso, è uno scandalo, diciamo che la radio non funzionino i piatti. Della gastronomia operaia. Cannibalizzazione, coltello, forchetta, mangiamo del padrone. Una scena veramente pietosa. E comunque tutti gli elisero dietro per questa storia e noi... E niente, volevo fare un saluto a voi della trasmissione, continuate così insomma. Adesso sto a casa, vi devo ringraziare, solitamente esco spesso invece... I buantri che state qui con le cuffiette e tutto appunto a parlare, perché noi si andrebbe a prendere una cosetta da bere, cioè secondo me è pieno di ignoranza. Tanti auguri tutti, insomma, tanti auguri a tutti, tanti contro auguri a tutti. Questo è l'unico augurio che ci si può fare per i prossimi 40 anni. 40 anni non sono un giorno. Per salutare questa radio e augurargli ancora tanti e tanti anni di vita. Permettetemi di fare tanti auguri alla Radio Onda Rossa per i suoi 40 anni, quindi io mi auguro e gli auguro di continuare a resistere e di farlo bene, ovviamente. Se volete ballate, eh.